Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi e ben ritrovati sulle frequenze di radio Buon Consiglio da Don Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovane. Sapete tutti quanti che ci stiamo dedicando in questo scorcio di tempo all'analisi dei 10 comandamenti e in particolare siamo giunti nella nostra disamina, diciamo così, congiunta al sesto comandamento. La volta scorsa ci siamo fermati una quindicina di giorni fa, introducendo la tematica del fidanzamento. Quindi abbiamo affrontato la problematica delle unioni civili e delle libere convivenze. Abbiamo visto quanto oggi questo fenomeno è tristemente diffuso anche alla luce di alcune statistiche e ora dobbiamo occuparci di quello che succede prima del matrimonio, sempre rimanendo nell'ambito, diciamo, della prima categoria, diciamo, di peccati contro il sesto comandamento, che sono quelli che offendono direttamente la purezza in quanto colpiscono la santità del sacramento del matrimonio. Una delle forme per profanare da prima, diciamo così, la santità di questo sacramento è cominciare a vivere come marito e moglie senza esserlo da prima del tempo, anche senza che questo comporti l'instaurazione di quella che si chiama in linguaggio comune una convivenza more uxorio. Allora, abbiamo accennato la volta scorsa, entriamo subito nel merito, che il fidanzamento è un tempo di discernimento, discernere, diciamo così, due punti fondamentali di ciò che caratterizza il progetto, diciamo così, di vita cristiana. Noi dobbiamo sapere, ragazzi, che noi non stiamo sul pianeta Terra così a caso o per chissà quale strana coincidenza, oppure che siamo venuti sul pianeta Terra, a farci una passeggiata o a cambiare aria. La nostra vita è stata da Dio pensata in un certo modo. Noi siamo stati creati da Lui, siamo stati dotati di una serie di requisiti, chiamiamoli così, di attributi interiori. Possono essere intellettuali, possono essere, di volontà, di temperamento, di carattere o anche di grazia, perché il Signore vorrebbe, e uso volontariamente il condizionale, destinarci a determinati compiti. Cioè la nostra vita è tutta scritta, attenzione a comprendere bene questo punto, sul libro di Dio. Tutta scritta per come dovrebbe essere e per come Lui vorrebbe che fosse, per quanto dipende da Lui. Ora, noi sappiamo bene però che il destino non esiste e che noi non siamo delle macchine programmate, quindi, o predeterminate, quindi è tutto da dimostrare che noi realmente faremo ciò che Dio ha pensato, ciò per cui Dio ci ha creato e ciò che Dio avrebbe voluto, perché la nostra libertà, che è ciò che ci rende simili al nostro Signore, non è qualcosa di fittizio, è qualcosa di assolutamente reale. Dicono i dottori della Chiesa che Dio può muovere la nostra libertà, nel senso che può volgerla verso ciò che Lui desidera, ma nel senso che la può in un certo senso costringere a sforzarsi di confrontarsi e di pensare a quello che lui vorrebbe, non nel senso, e questo Dio non lo fa mai, che la costringa a fare qualcosa che lei non abbia liberamente voluto e scelto. D'accordo? Attenzione perché dalla fare la volontà di Dio e il matrimonio è una vocazione divina, ecco, non è una cosa che si fa così tanto perché lo fanno tutti, no. Perché non tutti hanno la chiamata al matrimonio e non tutti quelli che non hanno la chiamata al matrimonio devono diventare preti, frati e suore. Questo dobbiamo sempre ricordarlo, abbiamo fatto altri incontri, credo, altri cicli di catechesi sempre su questa radio, spero, dove si è parlato di queste tematiche. Per esempio, io ho avuto modo di conoscere tra le tante realtà ecclesiali della mia vita, non so chi di voi la conosce, la realtà dell'Opus Dei, per esempio. Nell'Opus Dei ci sono alcune persone di sesso maschile e di sesso femminile, uomini e donne, che entrano a far parte, diciamo così, di una categoria particolare di membri di quest'opera che si chiamano numerari. I numerari, sapete chi sono? Sono laici, uomini e donne, che hanno compreso che la loro vocazione è di non sposarsi e di fare quindi un voto di castità, ma non per diventare preti, frati o suore o missionari, ma per svolgere in maniera santa, anzitutto il proprio lavoro professionale. Pensate per esempio a un San Giuseppe Moscati, santo canonizzato, un medico santo. Se San Giuseppe Moscati avesse avuto la moglie e i figli, non avrebbe potuto fare quello che ha fatto, sotto nessun punto di vista, né dal punto di vista del tempo, del tempo davvero ingente che dedicava ai malati più poveri, andandoli anche a visitare personalmente, né dal punto di vista delle risorse che ci investiva, perché lui dava i soldi a tutti. E sappiamo benissimo che pur essendo un medico e anche un grande luminare del tempo è morto povero, non c'aveva più neanche una lira per sé, per quanto era generoso. Se avesse avuto la famiglia sarebbe sicuramente stato un medico santo e sicuramente un santo marito e un santo padre, ma non avrebbe potuto fare esattamente quello che ha fatto. Allora, numerari e le numerarie prendono molto sul serio il fatto che Dio ha bisogno di alcune persone che facciano il proprio lavoro professionale in maniera eroica e se hanno del tempo ulteriore a loro disposizione, che si impegnino attivamente nell'apostolato, in particolare nella formazione, perché poi i numerari svolgono delle attività catechetiche e formative nei confronti degli altri membri dell'Opus Dei, cosa che, come sapete, anche un laico ben formato può fare. E purché sia sempre ben formato, e per quanto ne so, all'interno di questa realtà curano bene la formazione, e basta. E sono delle vite esemplari, delle vite santissime. Non sono né sposati, non sono preti, non sono frati, non sono monaci, non sono monache, non sono niente. Sono questo. E non è questa una vocazione di serie B o un ripiego, quindi capite quando non è che se uno non si sposa è perché è un fallito, perché è uno scapolone o una zitellona o cose di questo genere. Non sta scritto da nessuna parte questo. Cioè tu non ti devi sposare se non c'hai questa vocazione, perché il matrimonio è una cosa seria. È una cosa seria e impegnativa. Io ho una caterva di miei amici qui da queste parti, non è che io vengo da Marte, che sono un essere disincarnato, quasi tutti separati, quasi tutti. Si contano sulla punta delle dita tra i miei amici di un tempo, di quando insomma ero molto molto giovane, i compagni del liceo, dei tempi in cui frequentavo l'università, che hanno ancora una famiglia che sta ancora in piedi. Qual è il problema? Allora, quando una famiglia va in malora, sono due le cose. È come quando un sacerdozio va in malora. Qual è il problema? O era meglio che non ti sposavi perché non c'era vocazione, così come era meglio che prete non te ce facevi proprio. Oppure non ti sei preparato bene e non hai retto alle inevitabili difficoltà che sia nel matrimonio che nella vita da prete ti vengono e a cui ti devi preparare. Oppure hai fatto questo gesto in maniera sciocca, stupida, cioè facendoti i sogni e i miti, cioè io mi sogno il principe azzurro, la principessa rosa, quindi proietto nel matrimonio idee di felicità o di cose di questo genere che non esisteranno mai, d'accordo? Perché la persona ideale non esiste, non esiste. Non è che non esiste la persona con cui tu potrai essere felice e che amerai per tutta la vita, ma non è la persona ideale. Cioè quella senza difetti, quella che ti dice sempre di sì, quella che ti serve e ti riferisce qualunque cosa succeda e che va sempre bene tutto. Non esistono cose di questo genere. Perché ogni individualità umana è un'individualità specifica, personale, diversa da te. Quindi per quanto uno possa essersi ben preparato, e quasi nessuno oggi si prepara bene, perché oggi cominciano tutti a fare le cose prima del tempo di marito e moglie, e quasi nessuno fa quello che durante il fidanzamento dovrebbe essere fatto, e che è la cosa più importante, lo vedremo subito. Ci ho fatto una catechesi ieri sera su una radio concorrente, scusate lo scherzo, su Radio San Giuseppe, sul matrimonio di San Giuseppe e di Maria, un matrimonio unico, che però ha da insegnare a tutti i matrimoni che si fanno oggi, perché non aveva la dimensione corporea, come tutti sapete, ma aveva quello che quasi tutti i matrimoni, ahimè, non hanno, e che è la cosa più importante. Quindi un matrimonio può reggere anche senza la dimensione corporea, come dimostrano alcune rarissime coppie, ma che l'hanno fatto, che sono vissute in castità come Giuseppe e Maria, ma sicuramente non regge se non ha quest'altra cosa, di cui adesso vi parlerò, il cui tempo in cui... Scusate il giro di parole. Quest'altra cosa, il tempo in cui viene cominciata ad essere edificata, a porre le fondamenta, ad essere costruita, è il tempo del fidanzamento. Il tempo del fidanzamento. Qual è questa cosa? Questa cosa è il donare la tua vita ad un altro, a prescindere dalle sue risposte. Ad un altro che è persona, che tu vuoi il bene di quella persona sempre, comunque, dovunque, incondizionatamente, persona che hai avuto modo di conoscere bene, di apprezzare, di stimare, di saper comprendere, persona che è divenuta la tua migliore amica. Io dicevo ieri sera, oh, ma voi conoscete una coppia di sposi, provate, che ti venga a dire, tu gli chiedi qual è il tuo migliore amico, dovrebbe rispondere mia moglie. Qual è il tuo migliore amico? Mio marito, il migliore amico, perché l'amore di amicizia è non solo che è incluso, è precedente all'amore sponsale, anzi l'amore sponsale non esiste senza l'amore di famiglia, senza l'amore di amicizia, scusatemi, capite? Allora, durante il fidanzamento che cosa si fa? Due cose. Ho detto la volta scorsa che il fidanzamento è un po' come il seminario per un prete. Numero uno, allora, a contatto diretto con una creatura, quindi dal di dentro, quindi vi ho già detto che prima di fidanzarsi, la volta precedente, uno non devono cominciare le storielle precoci a 12 anni, a 13 anni, quando uno va presso alle proprie follie, alla cosiddetta cotta, che combina soltanto guai, col pericolo che si inizino a fare delle stupidaggini prima del tempo. Io ci potrei già scrivere un libro su quante ne ho sentite di storie di questo genere, inutilmente. Quindi prima di intraprendere un fidanzamento, già uno deve aver fatto una sorta di pre-screening, d'accordo? Cioè di discernimento personale, cioè a quanto posso comprendere, a quanto sento nel cuore, a quanto mi sembra di capire, la mia vita che direzione deve prendere? Cioè quella di... perché l'amore c'ha fondamentalmente due direzioni: polarizzarlo esclusivamente verso Dio, oppure indirizzarlo in maniera chiaramente divina verso una creatura particolare, per instaurare con lei una mutua comunione, e perché attraverso l'amore tra me e questa creatura possiamo cooperare all'opera divina della creazione degli uomini. Questo è il matrimonio, non altro, non altro. Allora, questo è uno screening che va fatto ante litteram. Quindi supponiamo che io dico, mi sento inclinato verso il matrimonio, comincio a guardarmi intorno, trovo qualcuno che mi interessa, simpatizziamo a vicenda e cominciamo a frequentarci, d'accordo? Senza impegno dapprima, e poi piano piano uno vede. Durante questo tempo, che poi diciamo c'ha una formalizzazione anche impegnativa, se vogliamo, e solenne, anche se oggi le forme esteriori sono ormai cadute in disuso, e con il fidanzamento cosiddetto ufficiale. Allora, durante questo tempo cosa devo fare? Uno, faccio una ulteriore verifica dal di dentro, cioè io vedo come mi trovo a vivere un rapporto di coppia, a cominciare a pensarmi non più al singolare ma al plurale, quindi con una persona che mi sta vicino e con cui poi potrò condividere tutto, tutta la vita, la casa, il tempo libero, il letto, la tavola, cioè quando uno è marito e moglie, due è una carne sola. Quindi bisogna vedere se ho questa capacità, se sul piano pratico Io sono capace di vincere almeno in maniera essenziale alcune forme egoistiche che tutti ci portiamo dietro. E di aver capito una grande cosa, dicevo ai ragazzi la settimana scorsa, dico: guardate ragazzi, oggi vi devo dire una grandissima cosa, eh? Grande, vi faccio una grande rivelazione. Dovete sapere che al mondo non esisti solo tu. E mi guardavano con due occhi così. Dico: guardate, questo non è così scontato, perché la stragrande maggioranza della gente, anche tra gli adulti, campa pensando che esiste solo lui, che degli altri non me ne infischia assolutamente nulla. E si vede in tanti piccoli comportamenti, da arrivare tardi a un appuntamento, che è espressione di questo modo di pensare, perché se io rispetto l'altra persona e so che mi sta aspettando, non arrivo mezz'ora dopo, arrivo puntuale, perché rispetto la persona, perché non esisto solo io. Tutti ci abbiamo delle difficoltà, ci abbiamo dei problemi, ci abbiamo degli imprevisti, mi organizzo per non far aspettare l'altro, se gli voglio bene, e se ho rispetto dell'altro in quanto altro. A cose molto molto più gravi, l'appuntamento era insomma una sciocchezza, no? Quindi per vivere una vita familiare tu devi essere capace di uscire almeno in maniera sufficiente dal tuo io. Non puoi tu e né puoi pretendere che chi ti sta a fianco ti faccia da servetto o da servetta, perché è esattamente il contrario alla vocazione al matrimonio. Cioè io mi dono a te per essere tuo servo. Non per farti mio servo, a tua volta tu ti doni a me per essere mio servo, ma io questo non lo posso pretendere. Sei tu che liberamente devi farlo. Questo è l'incontro matrimoniale serio e di vocazione. Allora, discernere se io ho questa vocazione dal di dentro e secondo, discernere se la persona che sto frequentando e con cui ho intessuto una storia, adesso vedremo in che modo, in che senso, in che forme, è lei. Perché i matrimoni sono scritti in cielo, quelli che noi cerchiamo di discernere e di riconoscere. Tutti i matrimoni che vengono celebrati sono scritti in cielo? No, questo ve lo assicuro perché l'ha detto la Madonna Fatima per bocca della piccola Giacinta, che disse parlando della Madonna: molti matrimoni non piacciono a Dio, non sono benedetti da Dio. Vuol dire che non sono scritti in cielo. Punto. Ma se tu c'hai la vocazione al matrimonio, stai tranquillo che il nome di tuo marito e di tua moglie sta scritto in cielo. E se tu fai quello che ti dico io oggi, non certamente perché te lo dico io, perché io sono, come ho detto tante miliardi di volte, sono semplicemente una tromba sfiatata che fa suonata da altri, d'accordo? Se preferite un pappagallo o se preferite una cassa di risonanza. Io non mi permetterei mai di dire cose mie quando parlo come prete e come ministro di Dio. Semplicemente riferisco cose di altri. Il padre della Chiesa usava l'espressione di un nano che cammina sulle spalle dei giganti. Quindi ricordate sempre che se qualcosa di buono vi sembra di poter percepire dalle mie parole, non dovete mai dire grazie a Don Leonardo, mai. A Dio e a chi per lui, io chiaramente non. Ogni tanto faccio qualche citazione parlando, ma dovrei stare a fare una citazione una ogni 5 minuti e ve la risparmio. Però ci tengo a dire, non pensiate che chi vi parla sia qualcosa o qualcuno, perché non è vero, non lo è. Allora, detto questo, allora, cos'è poi il matrimonio? Abbiamo già visto, il matrimonio è la donazione di sé a un altro. Quindi la dimensione prioritaria del matrimonio è spirituale. Spirituale non vuol dire disincarnata o vagamente spiritualista o spiritualisteggiante che non si capisce bene che cos'è. È un fatto profondo, interiore, che coinvolge tutta la nostra persona, i nostri affetti, la nostra volontà. Quindi, cioè, presuppone una stima, ripeto, della persona, il fatto che quella persona mi piace, il fatto che riesco a dialogarci, il fatto che riesco a condividere con lei un progetto insieme. Cosa facciamo? Cioè, che famiglia facciamo noi? D'accordo? Guardate che oggi molta gente si arriva a sposare, quanti figli facciamo? Ma lo vuoi? Cioè, non volete parlare durante il fidanzamento? Tu sai che se vuoi fare la volontà di Dio, una volta che ti sei sposato, dato che hai fatto tanti sacrifici prima, fai quello che devono fare marito e moglie, non sta a pensare a niente, d'accordo? A quanti figli te vengono, perché te ne vengono tanti quanti te ne manda il Padre Eterno. Io 2 domeniche fa ho fatto l'omelia che mi è arrivato su Facebook, un post da Basta Bugie, con una coppia attualmente vivente che stava incinta del sedicesimo figlio. Sono contentissimi, sono. E conosco una caterva di gente, aperti alla vita senza limiti, quindi senza nessun tipo di limite, neanche i metodi naturali, che sono leciti, ma non sono il top, anche se sono leciti. D'accordo? E che hanno due figli, o uno o zero addirittura in alcuni casi. Questa è una cosa, è un fatto importante, cioè io non posso andarmi a sposare, per esempio, se questo punto non lo condivido con chi mi sta a fianco, no? Perché dopo sorge una caterva di conflitti. Che tipo di stile vorrò dare alla mia famiglia? Ma dalle grandi alle piccole cose. Che casa ci compriamo? Sarà così importante per noi andare a fare le vacanze di chissà che cosa, di comprarci il macchinone? Adesso non lo so, adesso sto dicendo le prime cose che mi vengono in mente. Andrò al manicomio se la sera ci sta la partita e mia moglie c'ha bisogno di parlare, non sono buono a chiudere la televisione o vedere la partita. Guardate che la vita è fatta di queste cose. Queste non si improvvisano, perché se durante il fidanzamento, per esempio, la sera gioca il Napoli oppure la Juve o il Milan o la Roma o l'Inter, le dico tutti così nessuno si offende tra gli ascoltatori, e tu sei del Milan, della Roma e ti arriva una telefonata quando c'è la finale di Coppa dei Campioni, la Champions League, ragazzi, il Napoli sta in finale di Champions League, il Milan, e ti chiama una fidanzata e ti dice: guarda Leonardo, io ho bisogno di te stasera, mi sento giù, ho i miei genitori che hanno litigato, mio padre se n'è andato di casa, ho bisogno della tua presenza, puoi venire? Sei capace tu a dire di no alla Champions League, alla finale di Coppa? E devi dire di no se ami quella persona. Così come quella persona, le donne hanno altre fissazioni di vario genere, tipo le telenovelas o le soap opera, e se ci sta Beautiful e io ho bisogno di parlarti, tu spegni Beautiful e vieni a parlare con me. Cioè, le verifiche vanno fatte su la vita concreta è fatta di tante piccole cose. Quindi, e questa è una cosa che tu devi verificare, su cui ti devi provare. Se no, come fai a reggere poi? Sarò capace di essere sempre fedele? Cioè, che se mi viene vicino anche qualcun altro, io non te proprio calcolo, non ti proprio conosco, non te voglio manco vedere. E questo lo dobbiamo cominciare a dimostrare durante il tempo del fidanzamento, come? E rispettandoci l'uno all'altro, perché adesso lo vedremo, rinunciare alla pratica sessuale vuol dire garantire la fedeltà futura all'altra persona. Perché cosa vuol dire? Come io oggi dico no a te, non perché non ti amo, ma perché ancora non ti appartengo e io non mi prendo la libertà di rubare, perché questo è al mio futuro sposo o sposa, quello che è suo. Non è tuo, è suo. Io domani non sarò mai fedele a mio marito e mia moglie o non avrò nessuna garanzia se non sono stato capace di dare a te, mio fidanzato, ciò che è solo tuo e che passa attraverso tanti no che ho detto prima ad altri e anche a te fino a quando non siamo sposati. Se io non sono stato capace di fare questo, chi mi assicura che dopo il matrimonio, se arriva una bella signorina simpatica e caruccia, magari in un momento in cui sto un po' in crisi con te perché tu hai cominciato a affliggermi e a darmi fastidio e a farmi esaurire, e arriva subito vicino la principessa rosa più bella, più disponibile, più arrampante, più giovane, eccetera, eccetera, come farò io a dire di no, ad avere la forza per dire di no, se non sono stato capace prima di fare dei sacrifici su questo punto specifico? Come farò? Queste non sono cose che si improvvisano, sono cose che si costruiscono durante il fidanzamento e si costruiscono ad alti livelli. Quindi, l'amore spirituale, che è il cuore del matrimonio, vi ho accennato prima a San Giuseppe e la Madonna. San Giuseppe e la Madonna hanno vissuto un matrimonio verissimo, altro che a metà, e neanche di facciata o fittizio, hanno fatto finta. Perché così Gesù veniva al mondo in una famiglia apparentemente normale, ma quindi hanno fatto finta. Ma finta di cosa? La Madonna amava la follia Giuseppe, ma non come ha scritto qualche sciocco autore non, per ragioni di carità non faccio un nome, sono anche nomi eccellenti da fare, che si era innamorata di Giuseppe così come si innamorerebbe una ragazzina con pensieri così, trullallero trullallà. No, amava San Giuseppe di questo amore di cui vi sto parlando, una stima immensa, una capacità di condivisione, il senso di sicurezza che la Madonna ha sempre cercato e avuto da San Giuseppe, le sue cure di sposa, devota, sicuramente gli preparava delle cose buonissime a San Giuseppe, sicuramente cercava di sorriderle in continuazione, di consolarlo nei momenti tristi, di sollevarlo quando il lavoro magari di falegname non andava bene, tutte le cose che farebbe una moglie devota e innamorata, santamente. Eppure non si sono mai toccati. Mai sfiorati, d'accordo? Né prima né dopo il matrimonio. Ora, Maria e Giuseppe sono esempi di tutti i fidanzati e di tutti i matrimoni di tutti i tempi. Allora, di tutti i fidanzati, nel senso che il fidanzamento va vissuto esattamente così come l'hanno vissuto Giuseppe e Maria, né più né meno. Io questa cosa qui dopo ve la dimostrerò, perché queste non sono idee di Don Leonardo, eh. Qui ci sono delle pronunce di sommi pontefici di Santa Romana Chiesa. C'è un papa, ve lo dico subito, questa è la cosa che fa Vespai e varie forme di mi sento male. Alessandro VII Papa disse con una definizione dogmatica che l'opinione di alcuni teologi lassisti che dicevano che durante il fidanzamento darsi un bacio, non un bacetto, un bacio, e capite come, era peccato veniale secondo loro, perché dice sì, è un principio di un atto sessuale, ma non è tanto grave, quindi è un peccato veniale. Il Papa ha detto no, no, è un peccato grave se dato durante il fidanzamento, perché essendo comunque il principio di un atto sessuale, ed essendo un atto a forte contenuto comunque anche erotico, anche se c'è anche lì la dimensione affettiva, non puoi tu porlo in essere con una persona che ancora non ti appartiene, non ti appartiene una persona che non è ancora sposata, non si è donata a te in maniera piena e indissolubile e irrevocabile. E quindi quella è una porta che non puoi aprire, deve rimanere chiusa. Capite? Durante il fidanzamento cosa si può fare una volta, dice un prete, da 0 a 10, 0? L'unico spazio, diciamo così, franco, lecito, è quello di una manifestazione che è fondamentale anche questa curarlo nel tempo del fidanzamento, graduale di affetto reciproco. Sono le 17, ragazzi, facciamo un attimo una piccola pausa per l'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Qual è lo spazio del fidanzamento? Vi stavo dicendo, atti di tipo affettivo. E come sempre, dal momento che dopo, io lo so che i ragazzi vengono a chiederti: a Don Leonà, si può sapere io che posso fare durante il fidanzamento? Allora, io dico: che te devo fare i disegni? Mo te li faccio, d'accordo? Dei gesti, guardate che tutto quello che si fa bene nel fidanzamento te lo ritrovi nel matrimonio, perché anche la dimensione sessuale che poi c'è nel matrimonio non deve essere vissuta, perdonatemi il linguaggio un po', come se fossimo due animali, eh? Cioè la sessualità si chiama sessualità umana, d'accordo? Quindi un conto è vivere anche la dimensione sessuale dentro una dimensione affettuosa, di amore comunicato, di dolcezza, di delicatezza, bella. Un conto è compiere gli stessi atti, nella maniera con cui li compiono i nostri membri della stessa specie, che sono mammiferi, ma che non hanno l'anima e non hanno un'affettività come quella umana. Guardate che è molto diverso. Allora, se tu durante il fidanzamento hai fatto le cose prima del tempo, hai perso anche una chance, oltre che peccare mortalmente, cioè di esercitarti nell'atto e negli atti di comunicare affetto e di far percepire l'affetto, cosa a cui per esempio le donne sono particolarmente sensibili più degli uomini, ma anche gli uomini a volte lo vogliono, perché darsi semplicemente una carezza sulla guancia darsi uno sguardo pieno di amore e darsi una carezza sul capo e girare mano nella mano, passeggiare mano nella mano, oppure passeggiare appoggiandosi un braccio su una spalla, oppure in un fidanzamento serio si può darsi un abbraccio col cuore. Cominciarsi a dare qualche casto bacetto, sempre avanti nel tempo. Sono cose belle, che sarebbe anche bello, ragazzi, secondo il mio modestissimo, per recuperare un pochino, Perché oggi pare che non si capisce nient'altro che fare chissà che o chissà che cosa, le nuove trasgressioni, i nuovi culti, le nuove cose, non si sa più cosa uno si deve inventare, ma non sono queste le cose belle della vita. Noi abbiamo bisogno di sentirci amati. Non di sentirci goduti, perdonatemi se parlo in questo termine, però non se ne può più, secondo me. Da dopo la rivoluzione sessuale abbiamo veramente toccato fondi su fondi su fondi su fondi. Allora, siete fidanzati, esprimete castamente e reciprocamente il vostro affetto. Scambiatevi tenere e pulite effusioni. Mortificate è un no in vista di un sì. Ma voi pensate alla prima notte di nozze di una coppia di fidanzati che ha fatto questo. È un incanto di cielo. Cioè, e tu lo vivrai soltanto se hai fatto questi sacrifici che ti sto dicendo adesso. Perché se non li hai fatto, questo incanto di cielo non c'è, ragazzi. Se una ragazza ha perso la verginità, può fare tutte le confessioni che vuole, d'accordo? E se si pente, Dio la perdona, ma la verginità non torna. C'è una testimonianza, vi prego di andarla ad ascoltare, l'ho anche postata sul mio profilo Facebook, sta sul mio canale YouTube. Sul mio canale YouTube, Don Leonardo Maria Pompei, c'è una playlist che si chiama Purezza e Castità, dove ci metterò anche queste catechesi sicuramente sul sesto comandamento di Radio Buon Consiglio. C'è una testimonianza di una coppia di ragazzi americani, si chiamano Jason e Cristalline. Due ce ne sono di testimonianze, per cui non l'ha fatta anche Jason. Cristalina. Poi si sono sposati, hanno fatto una campagna stupenda negli Stati Uniti, ma Cristalina aveva fatto vita disordinata da giovane e lo dice pubblicamente durante una testimonianza. E dice a un certo punto: Jason è arrivato al matrimonio vergine, io no. Per cui io, purtroppo, nonostante che lui sappia il mio passato e mi abbia perdonato, non potrò guardarlo negli occhi così come lui guarda me. Perché io non potrò dirgli: sono solo tua. Nessuno mi conosce all'infuori di te, perché non è vero. E questo non si può cancellare. E pensate alla prima notte di nozze di una coppia di fidanzati che possono dirsi: nessuno conosce il mio corpo se non te, nessuno. Nessuno conosce i miei baci se non te, perdonatemi se nessuno. Le mie labbra non hanno sfiorato mai nessuno, che non sia tu. Ma immaginate che bello. Non è bello? O è bello arrivare lì alla prima notte di nozze che non si sa quando, che hai perso il conto, che ci vuole il pallottoliere per andare a contare quanti strofinamenti e quante storie ci sono state in passato. Provate a pensare, ragazzi, non lasciamoci travolgere dentro sto mare di fango e dentro un parlare comune, d'accordo? E dentro tutti fanno così, ma ti pare che vado appresso a queste cose, che stiamo nel Medioevo, ancora a fare questi discorsi. Non ci state a queste cose qui. Non ci state. E parlo alle ragazze, state attenti. Una cosa che dice sempre Cristalina. I ragazzi non sono cretini. Se voi date come messaggio, anche per come vi conciate e per come vi vestite, che io sono un bel corpo da godere, quello cercheranno i ragazzi. E i ragazzi per avervi faranno così: vi daranno amore, cioè affetto, illudendovi, per avere il vostro corpo e per godervi. E una volta che vi hanno goduto, vi butteranno via come un fazzoletto di carta. Ve lo dico io, ve lo dico. D'accordo? Le donne cosa fanno le donne specialmente di oggi? Le donne hanno bisogno di sentirsi amate, quindi cosa fanno? Vendono tra virgolette, offrono il corpo. In base a un briciolo di amore e di affetto che desidererebbero trovare da un uomo, dal quale non lo avranno proprio se, a differenza di quello che pensano, si concederanno completamente nel corpo. Perché un uomo, dopo che ha goduto quello che voleva, immediatamente comincia a disprezzare quella persona perché la considera come una poco di buona. buono. E vi ho fatto questo discorso di sapienza molto umana, ma vi prego di credermi, d'accordo? C'ho qualche annetto, ragazzi, e c'ho un po' di esperienza vissuta, ahimè, a livello personale. Forse non vi ho mai detto, e non lo sanno tutti gli ascoltatori, prima di fare il prete sono stato fidanzato 7 anni e pensavo di sposarmi. Vedete l'importanza del discernimento del fidanzamento? Io non pensavo di fare il prete, non pensavo di avere la vocazione a fare il prete. L'ho capito dopo. Quindi io so tante cose, dal di dentro. Ci ho avuto tanti amici, ho conosciuto tante situazioni, adesso ne ho conosciuto un'altra caterva nel ministero pastorale. D'accordo? Ok. Quindi durante il fidanzamento, cosa si può fare a sfondo sessuale? Niente. A sfondo sessuale, quindi a gesti, adesso non posso, per radio non si possono fare disegni, ma penso che più chiaro di così non si possa essere, no? Quindi gesti a carattere sessuale che sono idonei a stimolare quello che si chiama tecnicamente il piacere venereo, sono da bandire. Non è il momento opportuno per compierli. Io ci sono che voglio intervenire, posso? Sì. Chi è che vuole intervenire? Sono in ascolto. Ah, sono Alfonso della provincia di Caserta. Sì, Alfonso. Padre, l'ho ascoltata, io l'ascolto sempre, purtroppo per internet no, perché faccio difficoltà. Sì. Sì. Le volevo chiedere, queste persone che hanno convissuto, cioè che hanno provato quasi niente del vero matrimonio, mi permetto di dire quasi niente, ma cosa, avendo un esempio in campo di questo tipo di rapporto, io ho combattuto tutto la loro convivenza dicendo convertitevi adesso, smettetela, ve lo dice pure il parroco. Allontanandosi dalla Chiesa hanno fatto 2 anni di convivenza. Cioè, mo' vi dico la verità, mia sorella era proprio mia sorella. Mo' chiedo a lei, padre, ma che possono recuperare da là? Perché dicono che hanno fatto la scelta personale di farlo. Ma è grave, è terribilmente grave. Che cosa che possono recuperare da qui? Stanno nervosi, sono venuti a casa da Ferrara, sempre nervosi. Poi, meno male che quando pensavano al bambino stavano tranquilli perché è incinta mia sorella. Padre, io non so come metterla a nome. E poi mi è piaciuto quello che ha detto dei ragazzi che non, diciamo, non vivono né il matrimonio né niente, però la castità. Per esempio, io ho avuto un rapporto sessuale. Però sono 15 e passa anni che sto bene come sto, in preghiera con lo studio e sto bene. Loro dicono, cerco di andare sempre in chiesa, anche durante la settimana, faccio bene, no padre? Voi avete definito con un nome appropriato, non ho sentito bene quello che ho fatto io. Ah no, vabbè. Ok, le rispondo per radio. In pratica io sono andato pure da Velilla, alle suore, per vedere la vocazione. E c'è anche quella sacerdotale, però devo mettere a posto tante cose che purtroppo ho 33 anni, mi capite padre? Non Se ne possono avere pure 60, quindi non c'è nessun problema, ci stanno gli operai dell'ultima ora, quindi non c'è nessun problema. D'accordo, le rispondo per radio, le rispondo, mia è sorella meglio. la ringrazio, padre. Ok, Ave Ave Maria. Maria. Ave Maria. Allora, quando ci sono delle situazioni di errore grave, ecco, come quelle descritte dal nostro fratello Alfonso, cioè dice, due persone che hanno convissuto per tanto anno, hanno per tanti anni, hanno sciupato tutto, cosa possono recuperare? Allora, la risposta a questa cosa è complessa, perché sono ovviamente alcune cose che non possono essere recuperate, cioè loro non vivranno mai, come dire, un matrimonio come lo vivono due angioletti di cui stavo parlando prima che arrivasse la telefonata. Questo non c'è, indubbiamente però c'è comunque una possibilità di riscatto della propria esistenza e anche, come dire, di recupero di una benedizione di Dio anche su una cosa nata male, anzi molto male, come nel loro caso, qualora ci siano degli atti di pentimento. Perché il pentimento, unito alla confessione, unito alla penitenza e unito anche, dove possibile, a dei gesti riparatori, a carattere personale o anche a carattere interpersonale, può, come dire, indurre nostro Signore a concedere delle grazie che, per quanto riguarda, come dire, ciò che si meriterebbero le persone avendole sciupate, non dovrebbe dargliele più. Faccio un esempio. Supponiamo che questa famiglia intenda regolarizzare una propria situazione sposandosi in chiesa. Io, per esempio, da queste parti, insomma, ma so che lo fanno in molti, si chiede a una coppia di conviventi, e già se accettano questo è qualcosa, che prima del matrimonio religioso vadano a vivere ognuno per conto suo, tornino a casa, non soltanto dormano in camere separate. Quella è una cosa che si deve fare, per esempio, se hanno un bambino di 4 mesi, diventa poi non soltanto complicato, ma anche dannoso per il bambino, che interrompere per un certo periodo la convivenza. Ma se è possibile farlo, se accettano di fare una cosa di questo genere, che è comunque un gesto penitenziale, qualcosa si fa. Sicuramente dovranno fare prima del matrimonio un tempo di astinenza reciproca a scopo penitenziale, quindi con tutta una serie di gesti riparatori. La misericordia di Dio è un fatto reale, no? Quindi, certo, la misericordia di Dio, questo vale per tutti i peccati, ci riabilita e ci consente anche il recupero di alcune grazie che abbiamo perso per la nostra indegnità, però non toglie le conseguenze di quello che abbiamo fatto. Tu hai perso la verginità non ti torna. Tu hai fatto un figlio prima del matrimonio, hai fatto un figlio prima del matrimonio, chiuso. Hai scandalizzato delle persone negli anni addietro andando a convivere prima di sposarti, hai scandalizzato delle persone negli anni addietro andando a vivere a convivere prima di sposarti. Ecco, poi per quanto riguarda quello che stava dicendo, cioè la definizione che ho dato prima, che è quella di numerari, non è esattamente, cioè il numerario è una figura particolare di laico, tra virgolette consacrato, ma loro non amano che si chiami così, dell'Opus Dei, quindi è una persona che non è che momentaneamente, in attesa di discernimento vocazionale, vive come giustamente sta vivendo Alfonso, perché fino a quando uno non ha chiara la vocazione deve comunque vivere casto e deve vivere la castità nella forma della continenza. Loro gli danno un indirizzo definito, e per quanto riguarda la situazione particolare di Alfonso, faccia bene il discernimento, e magari con l'aiuto di momenti di ritiro, di una buona guida spirituale, in modo tale che, non preoccupandosi, 33 anni non fa assolutamente nulla, purtroppo di questi tempi è abbastanza frequente che si arrivi a scegliere la direzione dello stato di vita in età abbastanza avanzata. Paghiamo, io penso, il tributo al nostro tempo, e con fiducia sappia che il Signore farà in modo di fargli comprendere quello che vuole da lui. Riprendiamo, scusate, questa ulteriore interruzione. Vi stavo dicendo di voler concludere con alcune notazioni ed esempi. Uno è quello di Padre Pio, che ho già citato altre volte. Padre Pio, c'è un episodio storico che contiene un insegnamento molto chiaro e severo da parte dei santi sul tema del bacio. Allora, una settimana prima del matrimonio, una coppia di suoi figli spirituali, che lui avrebbe dovuto sposare una settimana dopo, diciamo, cedettero alla tentazione di darsi un bacio. Ecco. E la donna, chiaramente, fatto questa cosa, sapendo, a differenza di me, che, come vi ho accennato, quando ero giovane non mi rendevo assolutamente conto che questo era un peccato, è andata a confessarsi da Padre Pio. E Padre Pio le ha negato l'assoluzione, dicendogli: non potevi aspettare un'altra settimana, vatti a confessare da un altro. Io immagino che qualcuno forse sia sobbalzato sulla sedia mentre sta ascoltando queste cose, come sobbalzai io quando la sentii per la prima volta, no? Però Cosa fa comprendere questo? Esattamente ciò di cui stavamo parlando poc'anzi, cioè che l'aver compiuto questa cosa ha fatto perdere a quella coppia una caterva di grazie che il Signore avrebbe riservato loro se fino al giorno del matrimonio avessero conservato la castità perfetta. Quindi Padre Pio si è arrabbiato. Non perché non potesse assolvere chiaramente questo peccato, che è comunque un peccato grave, però pentimento e c'è la soluzione, ma si è arrabbiato perché facendo questa caduta, questa coppia aveva perso una serie di grazie da parte di nostro Signore, riservate a coloro che arrivano al matrimonio in maniera perfettamente integra. Quando io sentii questa storia, ancora non sapevo a livello, come dire, morale e dogmatico che questo fosse stato un pronunciamento di magistero ecclesiastico. E poi sono venuto a saperlo. Nel Denzinger, al numero 2060, lo trovate anche online il Denzinger, per i non addetti ai lavori, il Denzinger è un volume, diciamo così, che raccoglie tutte le pronunce magisteriali fatte da papi o da concili sui temi in cui è competente il magistero della Chiesa, ovvero temi di fede, quindi verità di fede, o temi morali, come quello di cui sto parlando, quindi verità di tipo morale. Allora, Papa Alessandro VII, il caso ve l'ho accennato, sui tempi teologi laicisti insegnavano che un bacio dato senza il pericolo di ulteriori conseguenze, è virgolettato, no? Quindi cercate di capire, no? Quindi un bacio che poi non sia seguito da una serie di atti conseguenziali che poi possano comportare quello che oggi è comunemente chiamato il petting. Quindi un bacio semplice, un bacio che uno dà anche in maniera profonda, spinta, e poi si ferma. Ecco, loro pensavano che fosse soltanto un peccato veniale. Ma il Papa ha respinto tale dottrina condannando esplicitamente questa proposizione, che ve la leggo, la trovate nel Denzinger. Probabile è l'opinione che dice che soltanto veniale è un bacio per piacere carnale e sensibile che viene da esso, fin quando non c'è pericolo di ulteriore consenso di polluzione. Questa sentenza è condannata. Quindi è condannata l'opinione che ritiene questo un peccato soltanto veniale. Quindi vuol dire che non è un peccato soltanto veniale, ma è un peccato grave. Come vi dicevo, spero in qualche puntata precedente, qui si applica il principio che in re venerea non datur parvitas materie. Negli argomenti di sesto comandamento non c'è mai materia lieve, la materia è sempre grave, anche se chiaramente dentro la materia grave, che è comunque sempre tale, ci sono chiaramente delle gradazioni. È molto più grave, per esempio, un adulterio, ovviamente questo lo capiamo, che un bacio dato da due fidanzati in un momento di debolezza durante il fidanzamento, questo è ovvio. Ora, sabato scorso, qui da queste parti, è stata la festa di Santa Maria Goretti, la piccola, grande Maria Goretti, la cui esperienza fa comprendere la gravità di due cose, dei rapporti prematrimoniali e anche dei peccati delle mogli invereconde. Marietta fu uccisa con 14 colpi di punteruolo, da Alessandro Serenelli quando ancora non aveva compiuto 12 anni. E fu colpita in questo modo barbaro perché lei resistette ad un tentativo di violenza carnale. Ora, Alessandro Serenelli stesso ha testimoniato con sue parole che mentre lui, cieco di ira e di odio per essere stato nuovamente rifiutato, non era la prima volta che faceva delle avance, colpiva in questo modo barbaro questa ragazza, lei non ha mai usato le braccia per parare i colpi di punteruolo, ma ha sempre usato le mani per tenere abbassate le sue vesti. Mentre diceva al suo aggressore: "Cosa fai, Alessandro? Questo non si fa, è peccato e vai all'inferno." E pensate alla mia sorpresa quando, tanti anni fa, leggendo il settimanale di Padre Pio, venni a sapere la soluzione di una storia che anche questo ho raccontato altre volte, Durante le apparizioni di Fatima, riconosciute queste dalla Chiesa, quindi che lì c'è stata la Madonna, non c'è dubbio. Durante la prima apparizione di Fatima, la piccola Lucia dos Santos, una delle tre pastorelle, che era quella che parlava con la Madonna durante le apparizioni, fece delle domande alla Madonna, chiedendo che fine avessero fatto alcune sue amiche che erano morte, due in particolare. Della prima, Maria das Neves, la Madonna disse che era in paradiso. Di un'altra amica, che si chiamava Amelia, la Madonna disse che questa doveva stare in purgatorio fino al giudizio universale. Io mi ricordo quando conobbi le apparizioni di Fatima tanti anni fa, dico, Dio, fino al giudizio universale. E che cosa avrà fatto questa? Se era un'amica di Lucia dos Santos, quanti anni poteva avere? 14, 15? Purgatorio fino al giudizio universale a quest'età? Che cosa mai avrà fatto? Allora, sapete cosa aveva fatto? Questa era una seconda Santa Maria Goretti, nel senso che ha vissuto la stessa esperienza di Santa Maria Goretti, quindi un giovane che voleva possederla. Lei non voleva essere posseduta, quindi non era consenziente, ma non ha opposto resistenza, come Santa Maria Goretti, per timore di essere uccisa. Quindi, diciamo così, ha, come dire, si è arresa alla violenza, pur contro la propria volontà, per timore di perdere la vita. Questo è il peccato per cui è rimasta in purgatorio fino al giudizio universale. E questo non è che si capisce molto difficilmente, perché se vi ricordate, quando abbiamo parlato del peccato, per commettere un peccato mortale ci porta all'inferno, attenzione, ci vogliono tre condizioni. La materia grave, e ovviamente il sesto comandamento è sempre in materia grave. Ci vuole anche la piena avvertenza, cioè rendersi conto di quello che si sta facendo, e questa ragazza si rendeva conto di quello che stava facendo. Ma ci vuole anche il deliberato consenso, quindi materia grave, mi rendo conto e scelgo liberamente di farlo. Il deliberato consenso, capite tutto subito che in questa fattispecie manca, perché la ragazza ha ceduto a una violenza, che comunque rimane violenza. Però gli altri due rimangono, quindi non è andata all'inferno, chiaramente, perché non ha consentito. Non è che dinanzi a questa, dicevo, questo mi ammazza, va bene, stiamoci, così ci divertiamo un po' e ci risparmiamo la vita. Non ha fatto questo, quindi ha subito controvoglia questa violenza. Però in una circostanza del genere, per questo dobbiamo pregare nel Padre nostro, non ci indurre in tentazione, quindi non permettere che cadiamo o che siamo provati o che siamo tentati, perché dopo, quando arriva una prova così grande, l'unica cosa da fare era quella di difendersi fino alla morte, ragazzi, come ha fatto Santa Maria Goretti, per andare diretti in paradiso come martire. Quindi pensate a un'espiazione quanto lunga, capite? Motivata, quindi, non dal fatto che questo era un peccato mortale, ma che fa comprendere quanto è grave questa materia agli occhi di Dio. Quindi attenzione, cioè, voi immaginate di riflettere su questa cosa e pensate semplicemente allo stile e ai modi di fare che hanno quasi tutti forse è troppo, ma diciamo molti giovani e giovanissimi ai tempi d'oggi. Ragazzi, quindi ho citato questi esempi all'ultimo posto e concludo la trasmissione di oggi per farvi comprendere: qui non si tratta di fare terrorismo religioso o di spaventare le persone, sono le ultime cose che vi ho detto. Io ho cercato, presentandovi questo tema, di farvi comprendere la bellezza e l'importanza di certe scelte, non tanto come dire no a qualcosa perché dopo è peccato e perché dopo vado all'inferno, anche se queste dimensioni sono presenti, ma cercando di comprendere la motivazione e quindi la bellezza e la sensatezza di quello che Dio ci chiede. Ecco, ho concluso facendo questi esempi, che questi esempi mostrano, diciamo, l'aspetto morale della dimensione, e l'aspetto morale della dimensione è grave e preoccupante se, come sono vere tutte le cose che vi ho detto. Il comportamento di Padre Pio dinanzi a un peccato di bacio fatto una settimana prima del matrimonio, ciò che ha scritto Papa Alessandro VII sulla gravità durante il fidanzamento, perfino di un bacio, la testimonianza eroica di Santa Maria Goretti per ciò che concerne il peccato di fornicazione, cioè del rapporto prematrimoniale, e le conseguenze espiatorie gravi che la mancanza di eroismo di questa amica di Don Lucia ha comportato, accettando di subire una violenza su una materia però così tanto grave. Ecco, quindi ragazzi, mi raccomando, siamo sempre decisi e forti. Spero che queste trasmissioni facciano, come dire, riflettere qualcuno e innamorarci della bellezza della castità per vivere santamente il matrimonio, scusate, il fidanzamento, e chi ha la vocazione porre in essere dei matrimoni santi e benedetti da Dio, perché di essi sia la Chiesa che l'umana società oggi più che mai ha quanto mai bisogno. Io vi benedico tutti, vi saluto dandovi appuntamento, se lo riterrete opportuno, a martedì prossimo. A tutti, Ave Maria.